Mas yota samutro sun arungi sing ono hang piso di atas si welas iki mas yo ilang nyawa sun filani biaran piaen sun lakoni kanggo riko Yaran piaen sun lakoni